La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Negli anni 90, alcuni scrittori che non si conoscevano si misero a raccontare un tipo di realtà in modo esasperato. Einaudi ebbe l'intuizione di riunire questi scrittori in un'etichetta, Gioventù Cannibale. Dice così Aldo Nova in un'intervista in cui racconta la nascita di un movimento letterario, il Pulp, un nome che trae spunto da un film che diventerà di culto per un'intera generazione, Pulp Fiction. Quella dei cannibali è forse l'ultimo movimento collettivo letterario in Italia. Tra loro c'è anche Giulio Mozzi. Mozzi è uno scrittore straordinario. Forse di questo gruppo è il più schivo e più preciso. Egregio oratore, persona capace di meravigliose analisi sociali. Oggi Mozzi è tornato con un libro di racconti dal titolo Favole del morire e noi lo abbiamo incontrato. Per entrare però nel vivo di ciò che vi stiamo per raccontare, vi facciamo sentire un estratto Rai del 96, in cui a parlare sono proprio i cannibali. Sentirete le voci in ordine di Tiziano Scarpa, Aldo Nove, Niccolò Ammaniti, Isabella Santacroce e Giulio Mozzi. Pulp è un genere popolare. E allora Pulp ovviamente è venuto fuori con Tarantino, che però lui secondo me fa così: sono seduto su questa sedia ma mica con tutto il culo, perché il suo naticume culturale deborda dal genere popolare. Quello che faccio io è descrivere proprio il naticume mio culturale che deborda dal genere popolare, che in questo caso nel mio libro sono i fumetti manga, i fumetti erotici giapponesi. Io credo che la cultura pornografica e anche la cultura sadomaso debba essere diffusa in Italia, entrare nella letteratura, visto che in qualche modo non ci ha mai fatto parte, per colpa di Croce, di tutta la formazione idealistica italiana, eccetera, eccetera. Quindi Pulp in questo senso senz'altro, sì. No, io invece credo che Pulp è quello che hanno deciso i giornalisti che siamo, ci hanno uniti in una gabbia, ci uniscono, praticamente facciamo parte, a questo punto abbiamo deciso di fare anche una squadra di calcetto. Ecco, sono per il nichilismo puro. Non credo che quello che io scrivo possa essere considerato come consolatorio, perché la consolazione è una cosa che, anche solo a dirla, sembra falsa. Sicuramente io credo che sia possibile. Sono molto tradizionalista, credo che sia possibile una redenzione del mondo. L'ultimo a parlare è dunque Mozzi, nato a Camisano Vicentino nel 1960. Di se stesso dice quasi sempre il peggio, ma come sentirete in questa intervista, quello che emerge è una persona di rara intelligenza e di profonda ironia. L'ho scelto perché la morte sembra una questione astratta, mentre il morire è una cosa che spesso va anche molto per le lunghe. È una cosa che può occupare molto la vita di una persona, di una famiglia o dei suoi amici, ed è un processo che non finisce con la morte in sé, ma continua perché poi il nostro corpo ha ancora un suo destino, un suo percorso di trasformazione, mutazione, di ritorno alla terra, come si usa dire. E io ho cercato di riflettere in questi anni proprio non su una stoppezza della morte, ma su questo processo al quale siamo tutti avviati a partire dal giorno della nascita, peraltro. E anche dal modo in cui si vive, no? È un amico che è un ottimo pediatra, che si presenta sempre come il miglior pediatra morente che esista nel mondo, che è un buon modo, secondo me, di pensarsi. C'è un detto antichissimo che dice: vivi come se tu dovessi vivere sempre, ma pensa e medita come se tu potessi morire da un momento all'altro, e questo va bene, questo fa parte anche della tradizione delle pratiche o delle arti del buon morire che si pubblicano e si leggono in Europa da un millennio circa. Perché secondo lei in questo periodo proprio c'è invece una rimozione anche nei riti collettivi, culturali della morte? Ma c'è una qualità di ragioni che sono state esplorate ampiamente, soprattutto dai sociologi, secondo me. Io vedo che tutta la nostra esistenza è guidata a stare sotto il segno della vitalità, sotto il segno della dimenticanza, dei rischi, dei pericoli, sotto un'idea quasi sovrumana di eternità che si realizza in terra. E questa è una cosa. Un'altra cosa è che la morte è diventata un fatto sempre meno naturale, sempre più complicato. Una volta si moriva e basta, oggi magari si sopravvive in forme più o meno felici, spesso anche piuttosto felici, l'ho detto, ma spesso anche non felici, si sopravvive per lunghi tempi. Una volta la morte colpiva come il fulmine, l'idea stessa della rappresentazione stessa della morte con la falce indica qualcosa di subitaneo, qualcosa che avviene in un colpo e via. Oggi morire è invece un lavoro lungo, tra l'altro io ho 55 anni quasi e sono nel pieno di quella generazione che forse per la prima volta ha visto come dire, il deperimento di massa dei propri genitori. È vero. E quindi tutti quelli che hanno la mia età sono più o meno alla presa con i decadimenti fisici appunto più o meno felici dei propri genitori, e questo al momento in cui magari c'è il massimo impegno per i propri figli, per la stabilizzazione professionale, eccetera, eccetera. C'è una fase nuova della vita che non c'era 20 anni fa. Non per niente in Italia vivono, si dice, circa 600.000 persone che di mestiere badano ai vecchi, un mestiere che non c'era 20 anni fa, assolutamente. Quindi noi tendiamo a non tenerci sotto gli occhi il fatto del morire, perché sta diventando in realtà invasivo, sta diventando invadente. Occupa anni della nostra vita, molti dei genitori può occupare anni della nostra vita ormai. Questa è una valutazione, in effetti non avevo mai pensato a questo aspetto, di questa, come dire, esplorazione quasi generazionale, no? Di questo tema dell'accudimento così a lungo. È vero. È una cosa di cui ho cominciato a occuparsi anche seriamente la letteratura. Al di là di, non so, c'è un romanzo che è uscito in Italia qualche anno fa, ma è un po' più vecchio, di Philip Roth, che si intitola Patrimonio, che è la storia dell'Alzheimer e della morte di suo padre. Ma anche la cinematografia, perché adesso è uscito da poco un film molto bello sull'Alzheimer, per cui si sta cominciando ad affrontare questo argomento. Sì, e comunque sono, credo, mezzo dozzine che in Italia i libri nei quali vengono raccontate le morti dei genitori, per tutto ciò che si comportano di cambiamento della propria vita, di modifiche delle prospettive, eccetera, eccetera. Forse il testo in qualche modo antesignano fu un diario scritto tanti anni fa da un giornalista che, colpito dal cancro, scrisse in dieta dal suo letto d'ospedale il racconto della propria morte. Oggi abbiamo i figli che raccontano questo diventare stanei dei genitori. C'è un libro molto bello di Elisabetta Rasì, che è uscito da Rizzoli, che si chiama appunto L'Estanea, che è un libro su una malattia della madre, una malattia puramente fisica, ma che va a produrre una distanza, una lontananza, una paura che prima non c'era. Lei ha citato diversi libri, forse molti ascoltatori non lo sanno, lei oltre che uno scrittore è anche un consulente editoriale. Ecco, le volevo chiedere innanzitutto come è arrivato a fare questo lavoro, cioè lei quando ha iniziato, insomma, ha finito il liceo, che cosa voleva fare e poi cosa è diventato e perché? Allora, io devo dire che non ho mai avuto tanto le idee chiare su quello che volevo. Sapevo che non volevo fare la vita dello studente. Dopo il liceo trovai l'occasione, finì a lavorare dentro alla Confartigianato del Veneto, per mia fortuna fu inserito come impiegato di infimo livello, ma all'interno dell'ufficio stampa, dove ho trovato alcune persone che mi hanno insegnato un mestiere. Non sono mai diventato particolarmente abile nel mestiere di redazione, che è una parte importante, mentre ho molto coltivato anche la pura tecnica della scrittura. Rimasi lì 7 anni, me ne andai quando la Confartigianato fu scossa da uno scandalo, come dire, purtroppo periodicamente, in certe organizzazioni. Me ne andai, finì a lavorare come fattorino in una libreria universitaria internazionale, e fu una bellissima esperienza. La libreria Cortina di Padova, mi divertii tantissimo. E durante questi anni cominciai a scrivacchiare e a trovare l'occasione per pubblicare un mio primo libro. E feci una pazzia, nel senso che nello spazio della biografia, siccome non avevo voglia di raccontare perché tanti fatti miei, scrisse: Giulio Mazzi abita a Padova e via Michele San Michele 5 bis. È nato nel 60, abita a Padova. Non è più il mio indirizzo, adesso sto lì a Comino 16 b, sempre a Padova. Comunque, il risultato è stato che ho cominciato a ricevere lettere di lettori e lettrici. Qualcuno cominciò a farsi vivo con me, mandandomi insomma, mando un racconto, questo e quello, e così mi trovai in un arco di tempo abbastanza breve ad avere dei testi da leggere. Ovviamente trovandone qualcuno, pochi interessanti, cominciai a proporli. Questo cominciava nel 1993, dopodiché a fare questo lavoro ho cominciato alla fine del 2001, quindi ci ho avuto un sacco di tempo, è stato necessario fare esperienza. Intanto avevo seguito la pubblicazione così al volo di alcuni altri, avevo curato delle antologie, cioè, si è costruito un po' alla volta questo mestiere, che è un mestiere da scout, come si dice quest'oggi. Io sono uno che riceve a casa tre volte al giorno e li guardo tutti. Li legge tutti? Li guardo, che non è come leggerli, nel senso che molto spesso la maggior parte, la stragrande maggioranza di questi testi non vale nulla, purtroppo. La prima volta è radio24.it, la mail per scriverci. Sul sito di Radio 24 trovate tutto l'occorrente per stare con noi sui social. La prima volta. C'è stato un momento a metà degli anni 90 in cui alcuni scrittori che non si conoscevano, che avevano anche una formazione culturale diversa, in alcuni casi molto diversa, si sono messi tutti quanti a raccontare un tipo di realtà più presente in modo esasperato, come dire l'urgenza del quotidiano rivisto attraverso la lente della contemporaneità assoluta e quindi l'influenza dei nuovi media. Insomma, l'Einaudi ha avuto la grande intuizione, la casa editrice Einaudi, di riunire alcuni di questi scrittori e inventarsi un'etichetta, quella di Gioventù Cannibale, che era poi il titolo di un'antologia. In quegli anni poi era uscito Pulp Fiction, un film che comunque aveva in qualche modo segnato un'epoca, e credo che tutto questo poi abbia in qualche modo caratterizzato l'ultimo momento identificabile in qualche modo della letteratura italiana. Girl, you'll be a woman. Aldo Nove racconta così la nascita di un movimento, quello dei cannibali, del quale in qualche modo fa parte anche Mozzi. Nove è uno dei più strenui sostenitori, amanti della scrittura di Giulio Mozzi, che molti definiscono come un tipo strano, uno che a un certo punto, come avete sentito nella prima parte dell'intervista, diffonde in rete il suo indirizzo di casa e il suo numero di telefono. E così, quasi per gioco, si ritrova sommerso di manoscritti e, leggendoli, nasce una nuova professione, il consulente editoriale. Ma tutto è vago e tutto ha la misura che merita quando si parla di Giulio Mozzi. A fare questo lavoro ho cominciato alla fine del 2001, quindi ci ho avuto un sacco di tempo, è stato necessario fare esperienza. Intanto avevo seguito la pubblicazione così al volo di alcuni altri, avevo curato delle antologie, cioè, si è costruito un po' alla volta questo mestiere, che è un mestiere da scout, come si dice quest'oggi. E sono uno che riceve a casa tre volte al giorno e li guardo tutti. Li legge tutti? Li guardo, che non è come leggerli, nel senso che molto spesso la maggior parte, la stragrande maggioranza di questi testi non vale nulla, purtroppo. Ma chi è che glieli manda? Anche per... A me li manda chiunque. Io uso in maniera anomala le reti sociali. cui lei trova, se lei guarda il Facebook, scopre che sul mio profilo c'è anche il mio telefono. Beh, però non è fin troppo trovabile, appunto, da persone che magari potrebbero pensarci su un po' di volte prima di inviare un testo, invece così... Allora, secondo me sì, secondo me per quante delle persone che mi mandano qualcosa da leggere dovrebbero rendersi conto da soli che non è il caso di impiegare il tempo di un altro per far leggere quella roba lì. Però non ho nessuna voglia di scappare il fumento insieme con la gramigna e quindi devo rendermi disponibile. Affronto lucidamente il rischio e apro la posta ogni giorno nella speranza di trovare qualcosa di bello o addirittura di molto bello. E poi in 15 anni di questo lavoro mi è capitato poche volte, però non posso pretendere, cioè il mondo non è pieno di capolavori, questo lo sapevo fin dal principio. Lei scrive soprattutto racconti, no? Che secondo me sono anche molto più difficili. Perché ha scelto questa forma? Lei dice che forse scrivere racconti è più difficile. Secondo me è molto più difficile scrivere romanzi. E io scrivo racconti perché di scrivere romanzi non sono capace. Ma perché si stufa dopo un po' di avere un personaggio? No, perché ci sono persone che hanno la testa fatta a forma di romanzo e persone che no. Io, guardi, lavoro molto bene con romanzieri, spesso lavoro proprio anche sui meccanismi di trama. Mi diverto anche molto in tutta la parte proprio di costruzione del romanzesco, ma per me è una faccenda quasi meccanicistica tante volte, che è qualcosa che a me personalmente per me non mi interessa e comunque non credo di non aver mai avuto un'idea romanzesca che fosse una in vita mia. Mentre nella misura del racconto, che vado dalle 15 alle 50 pagine ogni tanto, sì, le idee mi vengono, sempre di meno perché sto invecchiando, però mi vengono. E poi, ultimamente, non riesco quasi neanche più a scrivere racconti, scrivo delle cose strampalate. Ma perché? Perché Il romanzesco in quanto tale mi interessa solo come gioco, come aspetto meccanico, perché con i racconti sono arrivato a dire, credo, delle cose e se voglio approfondirle, se non voglio fare un'eterna ripetizione, bisogna di tentare delle forme più adatte a questi contenuti. Allora mi succede di fare cose che sembrano teatrali, di fare dei misti di prose diverso, delle cose assolutamente impubblicabili, che però curiosamente l'editore della Warren ha voluto pubblicare, perché gli sono grato, che sono dei tentativi di andare un po' più in là di quello che si può fare con la scrittura di racconto. Perché secondo me lei è davvero molto amato. Ma guardi, io mi rendo conto di essere molto amato da un gruppo fortunatamente molto piccolo di persone. Beh, non è vero, non è così perché piccolo. Perché all'amore bisogna anche corrispondere, sarebbe un vero problema. Mi rendo conto di questo, mi rendo conto di aver fatto qua e là alcuni racconti, alcuni libri che hanno influenzato parecchio alcune persone della generazione successiva alla mia. Però le dico anche una cosa, che in fin dei conti ho fatto delle cose importanti fra il 93-98. Dopodiché ho fatto alcuni libri che potrei definire meramente tecnici, cioè libri che stanno in piedi perché ho una capacità tecnica di fare, costruire e confezionare i racconti libri. In tempi più recenti credo di essere ritornato a fare delle cose che almeno per me sono veramente importanti, solo che formalmente sono esplose. In questo libro Favole del Morire c'è un solo pezzo che può essere definito una novella e tutti gli altri sono abbastanza indefinibili, quindi chiedono anche molta, come dire, comprensione al lettore. Beh, però questo io credo che sia anche molto importante, perché forse viviamo anche un momento in cui tutto è volutamente semplificato, no? E quindi anche avere del tempo per l'ascolto, se parliamo di musica, o del tempo per la lettura, intesa veramente come tempo dedicato, ha senso, ha veramente senso. Sì, poi per carità, io spero che il tempo dedicato alla lettura delle mie cose li paghi chi legge, perché delle volte si fanno delle cose molto complesse che poi chi se le legge dice: ma perché? Perché ho dovuto soffrire così tanto? Ma perché ha messo la foto della carta d'identità sul suo sito? Ah beh sì, beh, nella pagina dove do informazioni su di me, la carta d'identità è un documento pubblico, e quindi perché no? Poi in realtà c'è il fatto che io possiedo dei capelli abbastanza poco controllabili. Quando sono andato a fare la foto per la carta d'identità, nonostante tutti i miei tentativi, è venuta fuori una cosa per cui sembra che sia stata fatta da un fotografo in una giornata di molto vento. Una foto che mi diverte, ho detto: è vero, è molto bella. È molto bella. Ultima altra domanda è se ci può descrivere una sua giornata tipo. Allora, io scrivo nei tagli di tempo, perché in realtà il grosso del mio tempo è impiegato, è impegnato dal lavoro, che è tutto fuori che scrivere, la vita familiare che richiede il suo tempo, eccetera, eccetera. Il mio tempo di scrittura è spesso bizzarro. Sono una persona che dorme molto poco, non per scelta, ma perché costituzionalmente sono così, ed è abbastanza facile trovarmi al lavoro alle 5 di mattina, anche perché fra le 5 e le 9 di mattina, per esempio, nessuno osa mai telefonare, e quindi c'è una situazione di calma e di pace. Favole del morire è il nuovo libro di racconti di Mozzi. Alcuni estratti li metteremo sulla nostra pagina Facebook. Per stare in contatto con noi venite a cercarci sul sito di Radio 24. Lì troverete tutto. Ciao, ci sentiamo sempre domenica, sempre alle 13:30. Un saluto da Cristina Carpinelli. Skin me.